I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. L'Europa si muove per difendere la sharing economy, ovvero, tentando una traduzione, l'economia della condivisione, quella riconducibile a società come Uber, piattaforma per mobilità o trasporto, oppure Airbnb, altra piattaforma che mette in contatto chi cerca e chi offre un alloggio o una camera per periodi brevi. Bene, la Commissione ha pubblicato le linee guida non vincolanti sulla sharing economy, nelle quali mette in guardia gli stati dall'introdurre barriere eccessive a un settore che ha grande potenzialità e che nel 2015 ha generato in Europa un reddito di 28 miliardi di euro. Per la Commissione vanno previste autorizzazioni quando queste sono necessarie per tutelare gli utenti. È una posizione forte che giunge mentre gli stati, Italia compresa, si interrogano su come disciplinare queste attività senza impedirne lo sviluppo e senza danneggiare gli operatori tradizionali, si pensi agli albergatori alla contrapposizione tra Uber e i tassisti. Regole a parte, colpisce molto l'interesse intorno al business della sharing economy. Gli ultimi due esempi riguardano proprio Uber. Pochi giorni fa Toyota ha firmato con la società americana un accordo che porterà il gruppo giapponese a investire in Uber e a offrire leasing agevolato sull'acquisto di auto. E proprio ieri, sempre in Uber, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha investito 3,5 miliardi di dollari, operazione importante finalizzata all'espansione di Uber in Medio Oriente e in Nord Africa e che fa crescere a 11 miliardi di dollari la dotazione di Uber per i suoi piani di investimento. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alberto Orioli. La IATA, l'Associazione Mondiale del Trasporto Aereo, lancia l'allarme ritardi nei voli e precisa che l'estate imminente rischia di avere il record nella non puntualità dei collegamenti. Peraltro nelle ultime tre estati i ritardi si sono via via accumulati e sono aumentati di anno in anno. C'è un problema di scioperi nei controlli di volo in Francia che flagella in questi giorni tutto il trasporto europeo, ma non è solo questa la questione. Quello che manca in Europa è una vera struttura di controllo unica. Esiste Eurocontrol, ma non opera ancora in un regime vero di unificazione dei cieli e della rete e le strozzature dovute al mantenimento delle reti nazionali sono il problema principale nell'accumulo dei ritardi. In Italia è operativa l'ENAV, che peraltro il governo intende privatizzare e quotare in borsa entro pochi mesi. Il problema è che ogni anno aumentano i voli e soprattutto in estate si assiste a un vero e proprio boom, come è noto, ma le infrastrutture di controllo restano le stesse, non tarate quindi su ampi volumi a rischio di inefficienza e causa di perenne ingolfamento nel traffico, perché le operazioni vengono rallentate per garantire comunque la sicurezza, che naturalmente è un bene supremo. Se si arrivasse al cosiddetto cielo unico europeo, tra l'altro si creerebbero posti di lavoro, almeno 100.000 in Italia e 1 milione in Europa, secondo gli ultimi calcoli dell'Istituto di Amsterdam CO, specializzato in questo tipo di analisi. Senza contare che il cielo unico europeo potrebbe portare 245 miliardi di PIL europeo in più. Che sia in atto un'espansione è fuori di dubbio, visto che la IATA prevede un aumento di passeggeri dagli 891 milioni del 2015 a 1,35 miliardi nel 2035. Sarebbe quindi un peccato per l'Europa perdere anche questa occasione, e non sarebbe solo un fatto economico. In fin dei conti i ragazzi della generazione Erasmus si spostano sul continente pensando già di essere cittadini europei. È una lezione che dovremmo imparare tutti, e arrivare all'unificazione dei cieli forse potrebbe dare qualche utile indicazione anche per l'unificazione in terra. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.